L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa nuova puntata che, come sapete, va in onda dopo la giornata mondiale dell'acqua che si è celebrata nel corso della settimana, il 22 di marzo. Quindi di acqua parliamo anche noi oggi, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto alle celebrazioni ufficiali. In particolare ci occuperemo di Water Safety Plans, piani di sicurezza e salubrità delle acque potabili raccomandati fin dal 2004 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per affiancare le pratiche di controllo già esistenti. Noi ne parliamo nel 2015 circa grazie alla presentazione del primo progetto italiano per un Water Safety Plan che fu fatto dal gruppo CAP, ovvero il gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano ma anche di diverse altre province lombarde. Ora quel piano è diventato realtà in una parte della rete CAP, quindi torniamo a occuparci di Water Safety Plans. Il nostro primo ospite è Luca Lucentini, direttore del reparto di igiene delle acque interne presso l'Istituto Superiore di Sanità, che ha supervisionato i lavori per la realizzazione del piano del gruppo CAP. Si tratta di una strategia che privilegia la prevenzione a livello di tutta la filiera idropotabile, quindi addirittura dall'ambiente di captazione, cioè da dove l'acqua viene prelevata e quindi su tutte le pressioni e le potenziali sorgenti di contaminazione fino al rubinetto, possiamo anche aggiungere al bicchiere, cioè dove l'acqua viene consumata, in relazione anche a quali categorie di consumatori utilizzano l'acqua, quindi anche i soggetti più sensibili, e anche agli altri usi, ad esempio igiene domestica o preparazione alimentare. Quindi in tutte le fasi della filiera viene studiato quanto potrebbe influire sulla qualità e quindi i cosiddetti eventi pericolosi, cioè cosa potrebbe succedere a danno della qualità dell'acqua, e quindi poi come questo possa essere prevenuto. Quindi si guarda molto alla prevenzione, se capisco bene, quindi non si pensa a scoprire il problema quando poi accade così, ma si cerca di prevenirlo, immaginare dove potrebbe accadere qualcosa. Hai messo proprio a centro il problema. Molte emergenze cosiddette idropotabili avvenute in tutto il mondo, ma anche in Italia, hanno focalizzato il problema di aver trascurato qualche aspetto della prevenzione. Quindi attualmente c'è un monitoraggio, peraltro molto attento al rubinetto di utenza, e quando si ravvisa un problema su alcuni parametri standard, diciamo oggetto di una lista di controllo fissa, si genera una serie di azioni peraltro efficaci per gestire il problema. Qui invece ci si fa carico di studiare attraverso tutti i portatori di conoscenza sul territorio e quindi anche la presenza di aziende pericolose oppure altre possibili fonti di contaminazione, quali per esempio la contaminazione geogenica da arsenico, da fluoro, da altri materiali. Quindi cosa può succedere di pericoloso e come può essere prevenuto, cioè misure di controllo per impedire che questi fatti accadano. Quindi nel sentire anche la presenza di aziende potenzialmente pericolose per l'inquinamento della falda, mi viene in mente di tanti casi che ci sono in giro per l'Italia, nei quali con piani di questo tipo forse si sarebbe intervenuti prima di scoprire che c'era stato effettivamente un inquinamento. Certo, l'episodio più recente e diciamo grave è quello del Veneto, dove un'azienda, principalmente un'azienda ma diciamo un polo industriale, in realtà immetteva in un'area di ricarica della falda dei componenti particolarmente persistenti e mobili nell'ambiente, quindi questi contaminanti relativamente rari, cosiddetti emergenti, sono stati scoperti tardivamente nei rubinetti. Il piano avrebbe senz'altro indagato tutte le sorgenti di pericolo di quella falda, individuando appunto la presenza di aziende potenzialmente inquinanti, avrebbe monitorato e intercettato questi inquinanti ben prima che raggiungessero la falda. Quindi le misure di controllo potevano essere già allora stabilite, ad esempio delocalizzando l'azienda, oppure eventualmente studiando dei programmi di monitoraggio in grado di intercettare la contaminazione prima che arrivasse al pozzo di captazione. Il caso è quello dei FAS, no? Questo è il caso dei FAS, ma ne esistono anche altri, purtroppo anche in altre aree apparentemente incontaminate. Il caso di Bussi in Abruzzo è un altro esempio di presenza di discariche e, come spesso avviene, di mancanza anche di comunicazione fra gli enti di controllo. Un aspetto proprio importante del piano è mettere intorno al tavolo tutti i portatori di conoscenza rispetto ai vari settori di azione, quindi per esempio chi si occupa di discariche, e segnalare tutti i potenziali pericoli, cioè gli agenti biologici, radiologici o chimici che potrebbero interessare una certa area e quindi potrebbero finire nella nostra acqua. Quindi su questi viene attuato un monitoraggio, uno studio di plausibilità che questo avvenga e poi appunto il controllo di questo prima che si verifichino problemi. Certo. Il problema è ancora più sentito con i cambiamenti climatici. Le condizioni, diciamo, ordinarie spesso sono stravolte da mutazioni del clima che dobbiamo appunto prevedere con strumenti molto flessibili, non certo con un monitoraggio pedistico e non solo, diciamo, con un monitoraggio pedistico su liste ordinarie di parametri. I piani però dovrebbero essere messi a punto, questo diciamo per il futuro, se non sbaglio entro il 2018 da parte dei gestori, cioè adesso noi parliamo di un caso, di quello di CAP, che è una presentazione che è appena stata fatta e che diciamo è operativa da adesso, ma in tempi brevi dovrebbero partire in tutta Italia. Dunque, il Ministero della Salute vede il piano di sicurezza dell'acqua, introdotto con una direttiva del 2015, come lo strumento di elezione per garantire una maggior sicurezza delle acque destinate al consumo umano. Quindi sta intraprendendo una serie di azioni anche sul piano normativo, ma non solo, legate alla progressiva implementazione anche con obbligo ai gestori idropotabili. È evidente che è un processo che deve essere compiuto con i dovuti tempi, soprattutto per evitare che questi piani vengano fraintesi o non utilizzati al pieno delle potenzialità. Quindi un periodo di formazione degli operatori, un periodo di formazione anche per i gestori idropotabili, perché appunto possano applicare i piani nel modo più rigoroso e sistematico, e poi appunto un obbligo che dovrebbe avere in realtà un arco temporale di circa 5 anni, perché tutti i gestori debbano proprio implementare i piani. Però il segnale dato già ora con il recepimento della direttiva è che il gestore ha obbligo di implementare. Sui tempi, appunto, ripeto, l'importante è che le cose siano fatte bene, per cui ci sono dei tempi di formazione e di maturazione di alcuni concetti importanti da comprendere, mantenendo ovviamente il sistema di controllo attuale fin tanto che non avremo il pieno funzionamento del nuovo sistema. Tra l'altro mi sembra di aver capito che ci sono anche degli investimenti pesanti da fare, che quindi non possono essere richiesti in un arco di tempo troppo breve, oltre a quello appunto della formazione, del recepimento, dell'importanza di tutto il percorso. Questo è vero, ma è parzialmente vero, nel senso che l'investimento è proprio in risorse umane, cioè in impegno, diciamo, intellettuale e anche professionale. L'impegno economico è anche, ovviamente lo accompagna questo lavoro, ma in genere si tratta di opere che comunque il gestore dovrebbe fare per la prevenzione, si tratta di razionalizzare certi investimenti. A volte è anche più efficace l'operazione di investimento perché si adottano delle misure realmente efficaci senza divulgarle. Allora, infine, il ruolo dell'Istituto Superiore di Sanità in tutto questo qual è? Diciamo, noi abbiamo recepito fin dall'inizio, collaborando anche alla strutturazione dal 2004, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha creduto nei piani e li ha introdotti, abbiamo compreso l'importanza e abbiamo praticamente cercato di trasporre questi principi nell'ordinamento nazionale, quindi supportando il Ministero della Salute dal punto di vista normativo e cominciando molteplici sperimentazioni. Devo dire che nella totalità dei casi l'importanza del piano è stato compreso non solo da noi e dalle autorità sanitarie centrali e locali, ma anche dagli stessi gestori idropotabili. Quindi vorrei dire che il nostro supporto è stato quello di lavorare insieme e successivamente sarà quello di approvare i piani conoscendone, diciamo, gli elementi importanti e critici. Avendo già seguito quindi il percorso, quindi... Sì, in molte realtà diverse, insomma, dalla Sicilia in realtà alla Lombardia. L'esempio di Gap sicuramente è una, veramente una punta dell'iceberg, perché in realtà lo sforzo di mettere a punto tutti i piani nell'intero sistema acquedottistico è stato veramente ambizioso, e devo dire che le energie e l'efficienza con quale il processo è stato, con la quale il processo è stato affrontato hanno garantito un importante esempio, un caso studio, diciamo, esemplare da diffondere a livello nazionale e internazionale. E abbiamo sentito Luca Lucentini, direttore del reparto di igiene delle acque interne presso l'Istituto Superiore di Sanità. Ci ritroviamo tra pochissimo. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Continuiamo sempre parlando di Water Safety Plans. Il primo in Italia è quello appena inaugurato dal gruppo CAP, che, come dicevamo, è il gestore delle acque della città metropolitana di Milano e di diverse province limitrofe. È una società interamente pubblica presieduta da Alessandro Russo. È stato un anno di grande lavoro che ha richiesto un impegno di tutto il gruppo, e dover riscrivere i manuali d'uso e le modalità di controllo dei nostri laboratori e di analisi sui territori, l'immissione anche di alcuni strumenti tecnologici per fare dei monitoraggi in continuo, hanno richiesto un impegno non solo economico ma anche proprio di ore di lavoro notevole, e che devo dire abbiamo portato a casa in tempi record, quindi siamo molto contenti da questo punto di vista. Dunque, lei ricordava giustamente comunque che è stato anche un grosso sforzo economico e di innovazione all'interno del gruppo, uno sforzo che, diciamo, ha avuto i suoi risultati ovviamente perché è stato presentato, ma insomma, che cosa vi ha comportato, quanto avete speso per fare tutto questo? Beh, solo sul sistema acquedottistico di Legnano, quindi quello sperimentale, 1,5 milioni tra strumenti di monitoraggio, senza contare tutto il lavoro e quindi le ore delle persone che ci hanno lavorato, per cui insomma è un costo che poi dopo è esploso su tutta l'azienda, e anche ricordiamo che il Water Safety Plan nel 2018 diventerà normativa, diciamo dovrà essere attuata da tutte le aziende idriche, per cui in realtà sarà un grosso sforzo a cui tutto il sistema paese e tutta l'Europa sarà chiamata. Sicuramente ha richiesto un impegno economico importante. Noi siamo riusciti a partire per tempo e a, diciamo, anticipare un po' il percorso, anche grazie al fatto che la nostra azienda ha negli anni fatto un forte investimento sulla tecnologia e quindi sull'utilizzo di strumenti innovativi al servizio della gestione del ciclo idrico, e anche sul monitoraggio di quelli che sono le sostanze inquinanti, sulla falda e quant'altro, per cui grazie ad alcuni strumenti che già avevamo a disposizione ci hanno permesso di essere considerati l'azienda campione su cui andare poi a sperimentare proprio la normativa. Quindi in realtà, se volessimo dirla tutta, c'è un lavoro che non va anche oltre, va anche molto indietro rispetto a questo singolo anno, perché ci sono tutta una serie di prerequisiti che abbiamo messo a disposizione. Sono tre comuni pilota nel quale il Water Safety Plan è partito. Abbiamo costruito un nuovo manuale delle nuove procedure d'utilizzo, abbiamo installato tutti gli strumenti di monitoraggio in continuo, e quindi da adesso in poi il sistema acquedottistico chiuso di Legnano, San Giorgio su Legnano e Cerro Maggiore utilizzerà, diciamo, un controllo dell'acqua che verrà fatto attraverso il Water Safety Plan, per cui analisi per esempio anche tornando alle scuole, analisi per esempio anche ai rubinetti delle scuole. Ma questo da adesso, diciamo, da quando l'abbiamo implementato a in avanti, in età, diciamo, ecco. Tra poco faremo lo stesso, siamo ormai arrivati, abbiamo chiuso il manuale, quindi diciamo a giorni lo faremo anche nei comuni di Cologno Monzese e Vimodrone, poi piano piano a macchia, insomma, andremo nell'arco del 2017 di fatto a coprire il Water Safety Plan su tutto il territorio. Quindi insomma rapidamente arriverete a coprire un po' tutti, quindi non è una questione, non è una lunga attesa. Tenga conto che Legnano negli anni 20 era chiamata la Manchester d'Italia, era nominata, per cui il tessile, che è uno, come dire, degli storici fattori inquinanti, no, delle falde e quant'altro, era predominante a livello di industria, quindi diciamo fatto Legnano fatto tutto, l'acqua di Legnano è molto buona, per cui insomma ci aspettiamo di poter accedere accelerare, ecco, quei tempi. Siamo partiti da quella più difficile. Vabbè, insomma, così mi siete subito messi alla prova. Esatto. E poi il resto è tutto in discesa. Si paga di più l'acqua adesso rispetto a 5 anni fa? Molto di più? Quanto di più per l'utente, diciamo? Tenga conto che l'acqua costa circa 1 euro più o meno, poi la differenza, insomma, è nelle briciole, però circa 1 euro e poco più per ogni metro cubo, quindi vuol dire 1000 litri d'acqua costano, faccia lei, 0,001 centesimo a litro d'acqua, e tenga conto che in questo lavoro non c'è soltanto l'acqua potabile, ma noi offriamo due acque, perché la seconda acqua è quella che noi ridiamo all'ambiente dopo averla portata in fognatura e depurata, quindi il costo è molto basso. Rispetto all'Europa, l'Italia è il fanalino di coda. In Francia l'acqua costa 4 euro a metro cubo, in Germania 8, in alcuni paesi del nord arriva anche a superare i 10 euro, quindi da questo punto di vista le tariffe sono molto basse. Le tariffe sono basse, ma quindi come avete potuto portare avanti questi tipi di lavori così di innovazione? Il gruppo Cap è un'azienda molto solida che da anni ormai non distribuisce gli utili, ma i sindaci ci chiedono di utilizzare appunto le risorse per fare nuovi investimenti, per investire in innovazione. Un'azienda che ha pochissimo debito, quindi dal punto di vista finanziario si può permettere di anticipare una serie di investimenti che poi negli anni ritornano. E infine il sindaco del principale centro che beneficerà del piano, ovvero Legnano, Alberto Centinaio, in rappresentanza dei circa 60.000 concittadini. Gli abbiamo detto, insomma, come pubblicizzerà, dove farà utilizzare quest'acqua così controllata nella sua città. Sicuramente le scuole, quindi gli asili nido, tutto quello che è il pubblico. Partiamo da lì, ma poi il controllo di capordine è un controllo molto efficace, quindi questo si aggiunge ulteriormente ai controlli di routine, come lei sa, insomma. Però partiamo dalle scuole, insomma, quindi dove ci sono i bambini, i ragazzi, ecco. Che poi tra l'altro portano il messaggio a casa, questo non è neanche da trascurare, diciamo, no? Assolutamente sì, portano un messaggio a casa, ma al di là è l'attenzione, cioè voglio dire, al di là dei controlli che sono necessari e ovviamente ben visti da tutti, ma è il messaggio dell'importanza che ha l'acqua, insomma, perché poi traspare anche questo, un bene talmente prezioso che va difeso e va controllato continuamente. Legnanese è stata da sempre la culla trainante dell'economia nazionale, si può dire, perché la Manchester d'Europa era proprio Legnano, insomma, tanto per intenderci. Quindi sediamenti produttivi molto grandi, industrie di tutti i tipi, e quindi certo bisogna avere attenzione sul passato, dove la considerazione dell'acqua era certamente molto inferiore, per fortuna, di quello che è attualmente. Quindi noi siamo sempre molto attenti. Noi comunque, grazie a Cap Holding, abbiamo questa società che poi si critica tanto il pubblico, ma qui stiamo parlando di una società completamente pubblica che fa un ottimo lavoro. Decisamente un ottimo lavoro per quanto riguarda il ciclo dell'acqua. La società pubblica che veramente è un fiore all'occhiello per i nostri territori, per tutti i territori della città metropolitana. Quindi, insomma, ne siete anche orgogliosi, ecco, come sindaci che fate parte. Io personalmente sono orgoglioso di essere socio di Cap Holding. E in conclusione, dopo tanta acqua potabile in città, affrontiamo rapidamente un altro paio di questioni fondamentali. Lo facciamo con Luca Di Leo, della Fondazione Barilla, Center for Food and Nutrition, che come ogni anno in questa occasione ci ha ricapitolato un po' la situazione, non solo nel mondo, ma anche in Italia. E così scopriamo che il nostro paese ha una grande disponibilità di acque, no? Ma ha anche una delle impronte idriche più profonde d'Europa. Sì, noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove c'è una disponibilità di acqua che è tra le maggiori al mondo, anche se c'è da dire che poi non è omogenea in tutto il territorio, però è tra la più alta al mondo. E il problema è che noi non la utilizziamo nel modo giusto, non la utilizziamo bene. Quindi siamo fortunati, ma dobbiamo, come in moltissimi casi, questo si potrebbe dire per il paese Italia, abbiamo avuto da madre natura tantissime risorse, però non siamo molto bravi a utilizzarle bene. Dov'è che sbagliamo di più? Ma allora, dobbiamo ricordarci una cosa che molti spesso non ricordano o non sanno, che c'è moltissima acqua in quello che noi mangiamo, nel cibo che mangiamo. Perché se noi pensiamo ai dati complessivi, il prelievo di acqua dolce, il 70% viene dall'agricoltura, che è un dato incredibile. E soltanto il 22% viene dall'industria, mentre solo l'8% è per uso domestico. Questi qui sono dati complessivi di tutto il mondo. Se noi prendiamo il caso specifico dell'Italia, il dato dell'agricoltura è ancora più elevato. E allora che chiudere l'acqua del rubinetto quando ci si lava le mani e quando ci si lava i denti è importante, è giusto e bisogna continuare a farlo quando ci si fa la doccia. Ma in realtà questa è soltanto una piccola goccia, perché bisognerebbe anche dire che non va bene mangiare la carne tutti i giorni a pranzo e a cena, che tra l'altro fa anche male alla salute. Abbiamo una soluzione, perché anche poi dove è nato tutto quanto, la dieta mediterranea. La dieta mediterranea ci dice che noi possiamo mangiare la carne, per esempio, però la cosa importante è non mangiarne troppa. Questo è tutto un fatto di quantità. Perché se poi uno va a vedere l'acqua invisibile, quella che è nascosta dentro il cibo, vediamo che c'è una differenza enorme, perché in un menù vegetariano abbiamo circa 2.800 litri di acqua, in un menù di carne ne abbiamo quasi 5.000 di litri di acqua, e quindi è tantissimo, è notevole il risparmio che si può fare. Poi un altro dato interessante è che ogni giorno in media noi beviamo dai 2 ai 4 litri di acqua, a seconda delle persone può variare, ma ne mangiamo fino a 5.000 litri, quindi è molto importante quello che noi mangiamo. E per quel che riguarda il nostro paese non dovrebbe teoricamente essere troppo difficile seguire la dieta mediterranea, anche se negli ultimi anni un po' azzoppicato, no? Il problema è che la dieta mediterranea è nata in Italia ed è stata anche formalizzata in Italia. Da un americano, però Ancient Keys, ma è stata formalizzata qui in Italia, dai suoi studi condotti in Italia. Purtroppo negli ultimi anni ci siamo un po' allontanati dalla dieta mediterranea e questo è un vero peccato, perché se è vero, l'abbiamo visto di recente dall'indice che ha mostrato che siamo il paese più in salute al mondo, rischiamo. Questa è la fotografia di oggi, mi riferisco all'indice che ha fatto la Bloomberg, sì. Ma rischiamo tra 10-20 anni invece di trovarci in una posizione che è più indietro. E quindi è molto importante ricordarsi e ritornare alla dieta mediterranea, anche perché le altre parti del mondo avranno un maggiore, mi riferisco alla Cina, l'India, dove ci sono le popolazioni in crescita, avranno sempre più un maggiore consumo di alimenti che hanno un impatto forte sulle risorse del pianeta, fra cui l'acqua. Grazie a Luca Di Leo, Fondazione Barilla, Center for Food and Nutrition. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon ascolto.